Buona serata a tutti e a tutti, sono le 18.39, siete sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, buonasera. Buonasera. E cominciamo una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ. Innanzitutto ricordiamo i contatti, lo 06 49 17 50, il nostro numero telefonico. www.ondarossa.info il sito. E per quanto riguarda Profondo Rosa, profondorosa@ondarossa.info che è la nostra mail. Blog manco lo dico più perché ormai non lo aggiorniamo da tempo, però insomma sul sito www.ondarossa.info potete trovare grosso modo insomma tutte le ultime trasmissioni, almeno penso quelle dell'ultimo anno sicuramente. Sì, comunque si possono trovare anche sul sito della radio, basta andare su Palinsesto, cliccare sulla nostra trasmissione. E la trovi un po' più o meno tutto. Vi ricordo, cosa importantissima, mentre come al solito salutiamo tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Vi volevo ricordare comunque il conto corrente della radio, che è il 6180 4001, al quale potete sottoscrivere per sostenere Radio Onda Rossa con appunto un bollettino di conto corrente postale, un bonifico, quello che vi pare. Il conto corrente postale è appunto il 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma. E insomma, prossimo appuntamento con presentazioni di Scarceranda domani in quel di Magliana, al CSOA Macchia Rossa, via Pieve Fusciana, che è insomma una traversa appunto di via della Magliana, anzi una parallela per la precisione. Presentazione di Scarceranda 2016, cena sociale, riffa di bici, che insomma ormai sta diventando un po' una costante dei vari appuntamenti della radio. E poi buona musica, insomma, siamo lì, venite, vi date da quelle parti, ma non solo. E allora ci addentriamo un po' nei meandri di Profondo Rosa, andandovi un po' a raccontare quello di cui parleremo oggi, che in realtà è un ciclo che abbiamo cominciato già due puntate fa, dedicato a questo libro che si chiama Politiche dell'orgoglio, sessualità, soggettività e movimenti sociali, a cura di Massimo Prearo. L'abbiamo un po' preso a spunto perché insomma all'interno ci sono una serie di saggi disparati che parlano di una serie di argomenti dei quali insomma a noi andava di parlare, e quindi oggi, già la scorsa settimana, abbiamo fatto un po' una presentazione generale di tutto il testo. Oggi avremmo modo di parlarne telefonicamente con un ospite che è appunto il curatore di uno dei saggi che sono contenuti all'interno di questo libro, quindi direi che ci facciamo 10 secondi di musica, stabiliamo questo collegamento telefonico e poi partiamo con la trasmissione. Is my hand, the blue and cold eyes, I'm Allora, 18:44 partiamo con questa nuova trasmissione di Profondo Rosa, con questa corrispondenza telefonica con Gianfranco Rebucini. Ci senti? Ci sei? Sì, ciao. Ciao, buonasera a te. E come al solito, partendo insomma da questo testo che è Politica dell'orgoglio, parliamo insomma di questo saggio che è intitolato Homo normatività e Homo nazionalismo, gli effetti della privatizzazione della sessualità. Intanto magari insomma raccontiamo pure chi è Gianfranco Rebucini. Beh, Gianfranco Rebucini è un archeologo, scusami, un antropologo, un ricercatore che lavora a Parigi, insegna antropologia del genere e delle sessualità e, come dire, adesso è diventato abbastanza una costante che per parlare di questi argomenti chiamiamo Parigi sostanzialmente, perché evidentemente in Italia, nell'università italiana, non c'è più niente, quindi insomma noi chiamiamo a Parigi. Questo è diventato abbastanza consueto. Gianfranco, io partirei leggendo insomma le prime 10 righe che intitolano questo, che cominciano insomma di questo saggio che compare in Politica e l'orgoglio, che cominciano proprio così: omonormatività e omonazionalismo sono due fenomeni strettamente correlati. Questo capitolo cercherà di analizzare gli effetti della relativa smobilitazione dell'antagonismo politico delle formazioni gay e lesbiche dell'epoca neoliberista e come l'adesione di queste formazioni ai modelli eteronormativi ha prodotto una nuova articolazione in cui l'omosessualità normalizzata trova posto come un elemento essenziale delle politiche razziste. Si tratterà di mostrare come le politiche dei diritti di questi ultimi 30 anni si inseriscono in un processo più generale di privatizzazione neoliberale della sessualità. Questa privatizzazione ha creato le condizioni per un recupero strumentale delle questioni sessuali a fini nazionalisti e razziste da parte dei governanti, dei partiti nazionalisti, ma anche delle stesse formazioni gay e lesbiche. E insomma, un po' dici già tutto insomma in queste prime righe iniziali, per poi chiaramente sviluppare poi i concetti all'interno di questo saggio. Io partirei proprio insomma da queste 10 righe, da che cosa è effettivamente successo in questi ultimi 30 anni e che cosa poi effettivamente apre la strada all'omonormatività, c'ho grande difficoltà a dire questa parola, all'omonormatività e all'omonazionalismo. Ma guarda, io in questo articolo ho cercato di, cioè mi sono basato fondamentalmente su tutta una letteratura che esiste ormai da una quindicina d'anni, soprattutto negli Stati Uniti e negli altri paesi di lingua inglese, in cui in realtà si cerca di studiare, di vedere come più proprio questi fenomeni di omonormatività e di omonazionalismo crescono nella nuova era neoliberale. Perché dico che in realtà l'articolo era iniziato come uno studio sull'omonazionalismo, ho scritto anche altri articoli specificamente sull'omonazionalismo, e in realtà poi i due fenomeni, omonazionalismo e omonormatività, secondo me non possono essere disgiunti e non sono in effetti neanche disgiunti negli studi che ne sono stati fatti. Effettivamente in queste prime righe io dico che l'omonormatività, che in qualche modo è la ricerca da parte dei gay e lesbiche di una certa normalità, fondamentalmente questa è una parola difficile, per dire una cosa semplice, cioè la ricerca di normalità, la ricerca di essere come gli altri, diciamo, la ricerca di normalità da parte dei gay e lesbiche, è una strategia che si è messa in atto a partire dagli anni 90, giustamente per la ricerca di riconoscenza giuridica, soprattutto sulla questione del matrimonio, sulla questione dei diritti in generale. Questa strategia della ricerca dei diritti attraverso la normalizzazione della sessualità ha portato alcuni vantaggi, indubbiamente, soprattutto nei paesi di stampo più liberale, perché effettivamente è una strategia che può portare dei frutti in alcuni paesi in cui in cui il discorso liberale dei diritti, il discorso dell'uguaglianza dei diritti è un discorso fondamentale nel discorso liberale. E purtroppo questi vantaggi che sono stati avuti, per esempio nell'Europa del Nord, si pensa soprattutto anche a un paese europeo come l'Olanda, in cui lo stampo liberale è fortissimo, effettivamente ci sono stati delle grandi conquiste a livello dei diritti. E però queste conquiste sono state anche accompagnate in tutti questi paesi anche da altri fenomeni, come appunto quello dell'omonazionalismo. L'omonazionalismo, che è in qualche modo un recupero ideologico, un recupero nei discorsi, anche nelle politiche stesse dei gay e lesbiche, di un discorso nazionalista alla base e razzista ancor più. Quindi ecco, il tema fondamentale dell'articolo è proprio di vedere come questi fenomeni di normalizzazione della sessualità hanno portato in seguito anche a fenomeni di razzismo fondati proprio sulle politiche sessuali, proprio su questa normalizzazione della sessualità omosessuale, in breve. Senti, e come quindi questa era un po' era sì. No, di stavi dicendo? No, questa era un po' l'idea di base dell'articolo che ho scritto in questo libro. Senti, come cioè, in qualche modo tu dici che, insomma, all'interno di questo passaggio che è avvenuto nelle società liberali o neoliberiste, in qualche modo la sessualità è stata ricondotta nel closet o forse nella camera da letto, insomma, è diventata una questione personale. E quindi in qualche modo ha perso, insomma, le sue connotazioni sovversive, non so, diciamo, per usare una parola molto molto, insomma, così altisonante, probabilmente per essere ricondotta, insomma, sulla sponda che è quella, insomma, della richiesta di diritti, eccetera eccetera. Secondo te, insomma, questo qua è stato una strategia messa in campo appositamente dai movimenti LGBTQ per puntare, insomma, a entrare, insomma, a far parte delle società democratiche e neoliberali, oppure, insomma, ci sono stati anche altri passaggi importanti? Ma guarda, io penso che se si riprende un po' la storia delle rivendicazioni LGBTQ, soprattutto negli Stati Uniti, si vede abbastanza chiaramente come negli anni Ottanta il backlash dell'epidemia dell'AIDS è stato un passaggio fondamentale, perché l'amministrazione Reagan in quegli anni, all'inizio degli anni Ottanta, ha condotto una campagna estremamente violenta contro i movimenti gay. Si parlava di, quindi, tutti sanno, si parlava di cancro gay, di punizione divina contro gli omosessuali, la strategia messa in campo all'epoca per il matrimonio gay non era tanto solamente una questione di diritto formale. In realtà nei primi anni Ottanta la questione del matrimonio, del riconoscimento delle coppie di fatto, riconoscimento giuridico, era una questione di sopravvivenza per gay, soprattutto gay maschi dell'epoca. La strategia per la richiesta dei diritti in quell'epoca era una strategia di sopravvivenza, era una strategia perché lo Stato non assolutamente non aveva nessuna intenzione nei primi anni Ottanta di prendere in carico le questioni dell'epidemia, le questioni particolari che si avevano nella comunità gay. Quindi è da lì, a mio avviso, che parte questa strategia per la rivendicazione dei diritti e i diritti civili. Poi evidentemente le cose cambiano, le cose cambiano perché la situazione cambia, perché gli stati, tutti gli stati prendono in carico delle politiche di prevenzione, prendono in carico delle politiche di salute pubblica, e però le rivendicazioni per il matrimonio restano. e in un certo senso questo shock che c'è stato con l'avvento dell'epidemia dell'AIDS ha inciso moltissimo su un cambiamento di strategia nelle politiche omosessuali negli Stati Uniti prima e in Europa anche dopo. Quindi si riprende un po' la storia delle rivendicazioni, mi pare che gli anni Ottanta siano stati fondamentali in questo cambiamento di strategia, perché il problema non è tanto di sapere se i gay o le lesbiche siano o no rivoluzionari, siano o no sovversivi, perché in realtà tantissimi autori mettono in evidenza che la maggior parte o una buona parte dei movimenti e anche in generale degli individui gay e lesbiche non sono per forza sovversivi o non sono mai stati per forza sovversivi o rivoluzionari. C'è sempre stata una parte che pensava alla normalizzazione, ma l'organizzazione Mattachine per esempio negli Stati Uniti era un'organizzazione di inclusione, di assimilazionista, ed era una grandissima organizzazione negli anni 70 per esempio. Quindi non è tanto la questione di sapere se i movimenti omosessuali debbono o no essere per forza rivoluzionari. Il problema è che a partire dagli anni 80 anche la parte più progressista, diciamo, dei movimenti omosessuali si butta o si lascia, si fa prendere da questa strategia dei diritti formali e lascia molto da parte una strategia più ampia di cambiamento, di trasformazione della società, cosa che non era così negli anni 70 per esempio. Quindi mi pare che la questione principale sia la trasformazione piuttosto nei movimenti di sinistra che è avvenuta a partire dagli anni 80. Senti, mi sembra, insomma, poi mi dici tu quello che pensi, che in Europa poi negli ultimi anni, parlo dell'ultimo decennio, insomma, parlo da non so, dalle Twin Towers, da quella che è stata definita, insomma, la guerra di civiltà, il conflitto di civiltà, la guerra in Afghanistan, eccetera, e, insomma, da quest'epoca c'è stato un cambiamento d'atteggiamento a mio avviso molto forte anche da parte degli stati nei confronti di queste soggettività, che hanno in qualche modo prodotto politiche che hanno appunto reso mainstream le soggettività LGBT utilizzandole appunto a fini razzisti, e ti chiedo, insomma, se tu vedi questo cambiamento negli ultimi 15 anni sostanzialmente, e se puoi fare un esempio di cosa significa appunto usare le soggettività LGBT a fini razzisti. Sì, sono d'accordo con te, perché effettivamente in un contesto in cui i movimenti hanno rivendicazione di diritti formali, in cui in cui la maggior parte dei movimenti LGBT non si pongono più come orizzonte la trasformazione radicale della società, a quel punto, all'inizio degli anni 2000, effettivamente c'è un recupero di queste soggettività dalla parte dello Stato, soprattutto negli Stati Uniti, per giustificare per esempio delle guerre contro paesi musulmani e società musulmane che sono considerate come fondamentalmente omofobe, e quindi si usa il discorso del rispetto, della tolleranza verso i soggetti LGBT in Occidente come giustificazione di una superiorità occidentale di civiltà. Evidentemente questi discorsi, queste retoriche sono allo stesso tempo fomentati dallo Stato guerriero di Bush, che cerca quindi